Ben ritrovati a Lovelace, Radio Wombat, 21:12 dice il computer nella Wombat regia, nella tana del Wombat, e siamo a una puntata. Beh, in effetti abbiamo un po' perso il calendario e quindi vi sarete accorti che abbiamo zompato un po' di settimane, abbiamo fatto un gran casino. La settimana scorsa dovevamo andare, eravamo sul pezzo, abbiamo fatto anche una puntata che voi non lo sapete, ma è venuta a stra bene sull'elettricità. Peccato che poi non l'abbiamo mandata in onda, è successa questa cosa, c'è un piccolo contrattempo, però sì, infatti in realtà era così. Dettagli, oggi incredibilmente funziona anche internet, ora sta a vedere la pioggia di rane e quindi sì, ce l'abbiamo fatta però per ora, e sono in ottima compagnia qua perché mi sto facendo accompagnare insomma, su una puntata che in realtà da sola non ce l'avrei assolutamente potuta fare, e quindi insomma ho chiesto aiuto, ho lanciato un SOS, perché parliamo di libri oggi, che Lovelace, vi ricorderete, una trasmissione a cura dell'E-Club di Firenze, di FDU, che indaga un po' la tecnologia, una critica anche alla tecnologia, però cioè, sembrerebbe che i libri c'entrino un po' poco, ma in realtà, a parte che noi facciamo che cazzo ci pare, noi parliamo di quello che ci pare, però in realtà scoprirete nel corso della puntata che un po' c'entra, perché molto si parlerà di libri digitali, di ebook e di pirateria anche, anzi direi che la pirateria è l'argomento cardine, e quindi intanto vi saluto e vi ringrazio di essere qua. Se ci siete, cioè, fatemi un cenno. Sì, presenti. Pensavo salutassi gli ascoltatori, pronto a mettere una canzoncina di introduzione. Sembrava proprio. No? In effetti l'avevo un po' lanciata così, che poteva essere, ma invece la salutavo voi. No, invece viva, siamo qui, presenti. Ci siamo, direi che ci siamo. Con tutto il nostro entusiasmo e la nostra modesta competenza. Era una anche una, così, una bieca prova microfoni. E vi ricordo anche velocemente i social Wombat, in primis il sito radiowombat.net e anche il pad diretta@wombat.vado.li, al quale potete scriverci. Questa volta lo potete fare davvero, perché ci troverete sul pezzo in diretta a seguire i vostri commenti e le cose che ci volete anche chiedere, gli approfondimenti. E invece la messaggeria, messaggeria.wombat.vado.li, e anche questo è un altro modo per comunicare con noi, perché potete lasciarci dei messaggi in bottiglia, dei vocali, insomma, per, non importa neanche che abbiate il telefono, cioè proprio una roba tra, con tutto quello che avete, anche il browser del computer, tutto. È facile. E quindi detto ciò, velocemente iniziamo. Però effettivamente mi piace questa idea di iniziare con un pezzo musicale. Ma sì. Anche perché un po' ci dà il, come dire, il gancio per il titolo, quantomeno, della puntata di oggi, perché il titolo potrebbe essere un po' still this book, e quindi era un po' una citazione dai Business con Still This Records, e torniamo subito dopo. Still this record, still this record, still this record, don't buy it. Still this record, still this record, still this record, don't buy it. Got no money, I'm feeling down. I can't find it when I want it around. I see that record, I want it so much. I think I'll take it and try my luck. I'm in 10 and I don't really notice. I'm out the door and I'm on my toes. Scream, they won't catch me. I'm a punk, this is anarchy. Don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record, don't buy it, don't buy it, don't buy it. Steal this record. I download records on the internet. I haven't paid for a record yet. I tape them and I give them to my friends. Keep ahead of the latest trends. Don't buy it, don't buy it, don't buy it, steal this record. Don't buy it, don't buy it, don't buy it, steal this record. Don't buy it, don't buy it, don't buy it, steal this record. Don't buy it, don't buy it, don't buy it, steal this record. Steal this record, dicevano i Business, rubati sto disco, non comprarlo. E tra l'altro anche i System of a Down invece dicevano rubati sto album. E insomma, sono stati vari i musicisti che hanno incitato i propri ascoltatori, le proprie ascoltatrici a, non si dice forse ascoltatrici nel caso della musica, vabbè, sì. Fan. A rubare i loro dischi e la loro musica. E noi parleremo un po' di questo, ma appunto più sul fronte dei libri. E l'input ce l'ha dato un piagnisteo, diciamo, chiamiamolo così, una lamentazione che arriva direttamente dall'Associazione Italiana Editori. E ora io non è che noi stiamo proprio tutti i giorni sul pezzo a guardare cosa dice l'Associazione Italiana Editori, però diciamo che questa notizia ha avuto una grande eco sui giornali, sulla stampa nazionale mainstream. Io sono rimasta anche un po' basita, perché in realtà era una di quelle, boh, forse insomma una guerra non bastava, non si avevano abbastanza notizie, però effettivamente è andata un po' in su e giù un po' dappertutto, e l'ho trovata su praticamente tutti i giornali, chiaramente copia incollata o tre parole senza approfondire mai. E anche in trasmissioni di un certo livello su Radio 3, insomma, se ne è parlato in vari contesti, anche contesti, come dire, autorevoli. E la questione era fondamentalmente una, un'inchiesta che statistica, un sondaggio, ecco, che l'Associazione Italiana Editori ha commissionato a un'azienda, in particolare l'Ipsos, che si occupa appunto di fare rilevazioni, sondaggi, statistica, e appunto gli ha commissionato questo studio sulla pirateria, sugli atti di pirateria, in particolare all'interno del mercato dell'editoria, quindi quanti libri sono stati rubati, in particolare si parla dei 2 anni di pandemia, si fa si traccia un fossato, diciamo, poi vedremo che è nella loro testa fondamentalmente, però tra il prima pandemia e il dopo pandemia, quindi era stato già fatto uno studio nel 2019, ne viene fatto un altro adesso e si traccia un po' cosa è cambiato nel frattempo. Vi leggo, tanto per darvi un'idea, quello che proprio si legge nell'introduzione di questo studio, perché se voi andate sul sito dell'Associazione Italiana Editori a AIE, troverete subito in home page a grandi lettere i tratti essenziali di questo studio, in maniera abbastanza becera, ma c'è anche un link al quale potete accedere a tutto l'intero studio, quindi potete accedere a questo PDF che, a detta loro perlomeno, contiene tutta la vera e propria documentazione riguardo a questo studio, quindi come hanno fatto questi conti e i risultati. Io me li sono andata a leggere e in realtà poi lo vedremo, c'è ben poco, però nell'introduzione si legge: nell'anno della pandemia, che già l'anno, insomma, direi gli anni, però vabbè, è cresciuto in Italia il fenomeno della pirateria di libri a stampa, ebook e audiolibri. È vero, perché si parla anche di audiolibri. Nel 2021 si sono compiuti 322.000 atti di pirateria al giorno, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. È pari a 771 milioni di euro il mancato fatturato che la pirateria sottrae ogni anno all'editoria libraria, pari al 31% del mercato complessivo, escludendo il settore scolastico e l'export. Per il sistema paese, bello questo termine, la perdita è di 1,88 miliardi, cifrona, che questa in particolare è rimbalzata un po' su tutti i giornali. Cifrona. Grossa cifra. Per il fisco 322 milioni ogni anno, anche qui nelle nostre tasche si potrebbero spendere in ospedali e sanità pubblica, invece no, per colpa dei pirati 322 milioni all'anno che se ne vanno. Valori che si traducono in una mancata occupazione per 5.400 persone nella filiera, 13.100 posti con l'indotto, quindi chiaramente allargando a tutto l'indotto si arriva a 13.100 posti di lavoro in meno. Una catastrofe, un disastro. Il fenomeno coinvolge più di un italiano su 3 sopra i 15 anni, quindi il 35% degli italiani e delle italiane ruba libri, il 56% dei professionisti, questi si sa che rubano. Puntiamolo questo dietro, puntiamolo. Avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti e altri, e l'81% degli studenti universitari. Feccia, proprio lo schifo. Bene, questi sono i dati, hanno rimbalzato tantissimo, hanno fatto un certo, come dire, anche un certo scalpore, perché insomma si parla di una perdita di quasi 2 miliardi in un anno, è tantissimo. Allora noi ci siamo chiesti, va bene, ma ok, dare i numeri, l'abbiamo visto con la pandemia, l'abbiamo visto in vari momenti, è molto semplice, è molto facile, puoi snocciolare cifre in qualsiasi modo e leggerle come ti pare, ma andiamo a vedere esattamente cosa hanno contato e come l'hanno contato. Quindi, cosa si intende per atti di pirateria? Quindi, quando si dice ci sono stati X atti di pirateria all'anno, cosa si intende? Come fanno a contarli? Perché è chiaro che non è realistico pensare che li hanno contati per davvero. Chiaramente c'è stata un'indagine ipotetica, statistica. Come si conta il mancato fatturato? L'altro dato che hanno messo molto in rilievo, no? Perché chiaramente, insomma, passare a dire sono stati fatti X atti di pirateria in un anno e arrivare a dire quindi il mancato fatturato è stato questo, insomma, non è un conto proprio immediato. E da lì ancora di più, la mancata occupazione. Quindi hanno contato anche i posti di lavoro esatti, sì, proprio precisi, cioè, al netto delle centinaia. Viene da dire che quindi se ci fossero più entrate, se non ci fossero stati questi mancati guadagni, si parlerebbe automaticamente, si parlerebbe di nuove assunzioni, verrebbe da dirlo, no? Oppure mancati licenziamenti, cioè per colpa della pirateria sono stati licenziati madri di famiglia, mi immagino. Famiglie intere, 13.100 famiglie per l'esattezza. Assai. Bene, allora noi ci siamo andati un po' a spulciare questi dati e devo dire davvero la prima considerazione è che questa inchiesta apparentemente, come la dicono loro, completa, non è completa per niente perché non si capisce, non viene scritto come hanno contato. Quindi è molto difficile capire veramente come hanno fatto questi calcoli. Però alcuni dati li abbiamo potuti un po' estrapolare e ci sono sembrati rilevanti, come dire. Da qui nasce un po' anche la puntata di oggi. Intanto, come hanno contato? Hanno fatto delle interviste online, fondamentalmente, tutte interviste online, volontarie, ovviamente, nel senso che gli hanno chiesto volete essere intervistati o no, come succede nei sondaggi, divise su tre fasce. Hanno diviso pirateria varia, dove hanno messo tutte le persone dai 15, cioè il target erano tutte le persone dai 15 anni in su. Si tratta di una platea di 51 milioni circa di persone, cioè in Italia dai 15 anni in su ci sono 51 milioni di persone circa. Bene, di questa platea allora hanno intervistato ben 2.700 persone, che facendo un rapido calcolo sono lo 0,05. Questi sono i dati che abbiamo, almeno che loro hanno, sulla pirateria varia. Sui testi universitari si calcala, qui gli universitari è più semplice calcolarli, sono 1.800.000 gli universitari attualmente in Italia. Loro hanno fatto 706 interviste, quindi si tratta dello 0,03% delle persone. E la terza categoria era i libri e le banche dati professionali, manualistica, poi lo vedremo. La base in questo caso sono i liberi professionisti, quelli che perlomeno al fisco risultano come tali, e sono 1,4 milioni. Anche qui circa come sopra 720 interviste, quindi lo 0,05%. Quindi è una base piccolina, diciamolo. Sì. Il primo dato sì, è un po' questo. Quindi è interessante vedere come subito questi numeroni su sono stati fatti in un anno. Non mi ricordo più quanti atti di pirateria, bene, ma stiamo parlando comunque dello 0,03 o 0,05%. Oltretutto mi pare di aver capito, ora conferma te se giustamente, cioè come avevi controllato, cioè che non hanno neanche rilasciato i dati in maniera pubblica, non è che hanno rilasciato un dataset o un file con i dati. Esatto. Cioè, hanno semplicemente dato le stime che loro hanno. Io devo dire, non so se poi questi dati da qualche parte sono rintracciabili, io non ci sono riuscita. Sicuramente non dal sito dell'associazione. Io credo proprio, essendo un'azienda privata. Penso. Che cazzo te le rilasci. E comunque sia, sicuramente io posso dire, se ho avuto difficoltà, penso che neanche i giornalisti abbiano avuto a disposizione questi dataset, e sicuramente mi immagino non si saranno scomodati andare a guardare poi come sono stati contati. Conosciamo i giornalisti italiani. Eh no, però noi un po' di sì, conti in tasca, per quel che è possibile, visto tutti i conti che hanno fatto loro, li stiamo facendo. Certo. Sì, e per ora sono bruttini, perché appunto stiamo parlando di cifre veramente bassine, sinceramente. E passiamo a un altro conto, che è quello come hanno stimato i danni economici, perché qui si parla, insomma, si punta il dito e si parla di, insomma, cifrone, 1,88 miliardi di mancati introiti, insomma, era una roba. E loro in questo caso parlano di una stima del danno all'editoria, ossia del valore delle vendite perso a causa di mancati acquisti legali. Non si sa bene come hanno stimato questi danni economici in realtà. Si può ipotizzare che abbiano stimato un prezzo medio di un libro e lo abbiano moltiplicato per gli atti di pirateria, non lo so. Io molto mi son approssimativo fatta... quantomeno, se anche così fosse. Non lo so, io mi sono fatta questa immagine, non so se poi hanno fatto così, non sì, c'è dato certo, di sapere. Certo, anche perché poi cioè, la statistica è una scienza un po', si può dire, imperfetta, cioè si piega sì, a chi ha l'osservatore, nel senso... Io mi immagino che sia andata così, anche se non ne ho la certezza, però facciamo finta che è andata così. Quindi poi, vabbè, è comunque plausibile, cioè Grazie abbiamo. media. Cioè, si può arrivare effettivamente se la metti così. Io quei libri li potevo vendere, non li ho venduti, allora ci ho perso X soldi. Vabbè. E hanno fatto un altro conto, che era quello del danno all'editoria per canale d'acquisto, e hanno diviso in store online, librerie e abbonamenti, mettendo tutto insieme, che poi vedremo, è anche qui un calcolo abbastanza forzato, perché in realtà hanno modalità molto diverse. E anche i costi, insomma, non è tutto uguale, ma loro hanno buttato tutto lì. Poi hanno messo il danno all'editoria per contenuto e hanno calcolato per il formato fisico, quindi per il cartaceo, 551 milioni di mancati introiti. Digitale, 220 milioni. Boh, comunque se ne fanno i Tanti soldi tanti sul nell'editoria. digitale, accidenti. Sarà vero. Sarà vero, vedrai, lo dicono. E da lì si arriva a un impatto del danno sul mercato del libro e il valore del mercato. Questa è una stima anche qui fatta dall'Associazione Italiana Editori, non da un soggetto terzo, sempre se la cantano e se la suonano, però il valore del mercato stimato nel 2021 da loro è di 3.000, scusate, di 3,2 miliardi. Invece il valore del mercato tolto lo scolastico e l'export, non so perché fra l'altro l'hanno tolta questa, Infatti, chissà non lo perché so, l'export. boh, è di 2,4 miliardi. Quindi insomma anche qua Accidenti. enormi danni. Ora da qui non si capisce assolutamente come, salto mortale terzo, triplo, Carpiatissimo. carpiato. Viene fatto, si arriva alla perdita dell'occupazione, la perdita occupazionale, e si arriva in maniera che veramente non spiegano in nessuna maniera, parlano di 13.000 posti di lavoro, di cui 5.400 nel mondo del libro. E ulteriormente, altro triplo salto mortale, la base è la popolazione 51 milioni di persone, cioè Di questa 15 anni in su, sì. l'abbiamo detta, e si arriva a questo dato che poi è quello che abbiamo detto, che l'incidenza della pirateria sulla popolazione è del 35%. Ora, Spam. io questo non me lo so, non so, Simpatico, però. non so capire come fanno questo salto, però lo dicono, lo fanno, e quindi si arriva da lì le giornalate che comunque il 35% della popolazione compie atti di pirateria, ha compiuto atti di pirateria in un anno. Boh. Una cifra che ritorna è questo 35 comunque. Poi lo vediamo più avanti, ma forse sono innamorati del Dice 35. che c'è una cabala Per dietro. esempio, Messaggeria detiene il 35% della distribuzione libraria e il gruppo Mondadori Rizzoli il 35% della produzione editoriale. Pensate. Colpi di scena sul 35. Magari c'ha un senso e noi non lo capiamo. Ma non si era detto comunque, scusate, che avevano contato lo 0,03 delle persone? Quindi, ma come stanno calcolando? Cioè, com'è che arriviamo a dire che 35 la pirateria ha un'incidenza del 35% sulla popolazione, ma in realtà noi abbiamo contato sullo 0,03? Non si sa. Proiezioni. Magari si dice, ma se l'hanno fatto un 10, Sì. se contavamo 51 Ma peraltro milioni. senza contare l'hanno fatto su internet, quindi a persone che hanno accesso a internet, che hanno il computer, che sanno cosa vuol dire piratare e che praticano la pirateria, quindi sicuramente la base si riduce ulteriormente senza contare chi è anziano, chi ha meno di 15 anni. Anche se perché bisogna sicuramente anche capire il campione che hanno deciso, il modo di campionamento che hanno deciso di adoperare per fare questa statistica. Cioè, sicuramente avranno scelto su persone che leggono libri di base, perché a loro interessa quello. E poi, appunto, il 700, quanto dicevamo, 700 e passa persone universitari, quindi nel campione saranno persone che leggono libri. E poi da questa proiezione, invece, cioè, quindi su un campione che analizza una popolazione che legge libri, te fai un'inferenza su una popolazione che invece è complessiva. Quindi, secondo me, è questo che forse anche perde un È po'. viziato, porta numeri Esatto, è esorbitanti per viziato. piangere miserie, evidentemente magari rivendicare cosa, sussidi statali, attenzioni specifiche per il settore, eccetera. Sì, assolutamente, come dire, si parte dal risultato che voglio ottenere e mi faccio tornare i Sì. conti poi di base. Ora, ammesso che, ammesso non concesso che questa ricerca abbia un senso, e l'abbiamo appena detto, il senso che di base ha, i loro risultati riguardo all'incidenza dicono comunque, se si vanno a vedere, che rispetto al 2019, ma dati che dichiarano loro, la pirateria varia, quella che dicevamo la prima fascia, no? Quella che era calcolata su, in teoria, una platea di 51 milioni di persone, è diminuita dell'1%. Nell'ultimo negli ultimi 2 anni. Colpo di scena. E quella dei test universitari è invece aumentata dell'1%. E quella dei libri e banche date professionali è diminuita del 5%. Quindi io davvero ho delle difficoltà a capire come leggere questi dati, perché nella slide successiva, perché comunque questa inchiesta è fatta a slide tipo PowerPoint, non è che proprio sia Figuriamoci. è proprio un paper. Colorata. Sì, è Sì. un... E nella slide successiva si dice che c'è stato un aumento del 5% rispetto al 2019. Cioè, Non sarà meno tre. non capisco. Vabbè. Appare per la prima volta in questa slide, a questo punto, la cifra, ovvero 112 milioni nel 2019 di atti di pirateria e 117.000 600 milioni appunto nel 2021, ma come l'hanno calcolata? Non si sa. Nelle domande in realtà non è che, cioè non compare mai tipo quante volte hai peccato per esempio, ma c'è sempre solo la domanda, ma hai peccato almeno una volta? Cioè ti viene sempre chiesto, ma quest'anno Almeno una volta hai peccato, quindi calcoli fatti un po' così. Quindi non si capisce come hanno contato poi in realtà questi 118 milioni di atti di pirateria, se gli intervistati in totale erano 4.126, perché in tutto, facendo i conti di quello che abbiamo fatto prima, si parla di 4.126, non, cioè è chiaro che è una proiezione arrivare a dire che quindi, cioè io non credo che gli intervistati abbiano detto sì, ho fatto un atto di circa 1 milione di atti di pirateria quest'anno, cioè. Non c'era proprio nelle domande, quindi non torna. Un ultimo dato importante, poi smettiamo con queste no nostre lamentazioni sui numeri. La consistenza, e questo boh, è bello, lo voglio dire, la consistenza delle persone che hanno accettato di farsi intervistare. Bella, bella. Nessuno, cioè, non, cioè, allora, le interviste complete sono il 13% di quelle che hanno provato a fare. Rifiuti solo l'87, cioè l'87 si è detto, ma guarda, ma non mi rompere i coglioni. E in totale, e quindi insomma, hanno provato a contattare 3.344 persone, che sono, ripetiamo, un numero infinite, cioè Sì. bassissimo. 30.000, mi sa. Sì, scusa, cosa ho detto? Ho detto 300. 30.000, 30.000, 30.000 bravo, sì. persone. 30.000, sì, scusate. 30.000, di cui comunque hanno risposto in 4.000. Quindi, cioè, siamo a dei numeri, boh, siamo a 61 milioni in Italia, cioè, boh, vabbè. E come dicevamo, fra l'altro, basati su chi ha la possibilità di effettivamente praticare. Di leggere, sì, chiaramente, però, vabbè, sai, su quello uno dice, vabbè, Sì. tanto gli altri non leggono, sono ignoranti, non Però so. poi la percentuale viene calcolata sulla totalità della popolazione. È vero, hai ragione, ah, ci avevo pensato, è vero. Eh sì, e quindi non so, in realtà questi sono i primi dati che ci hanno un attimo dato l'idea di parlare di questa questione, e quello che volevamo continuare a un po' approfondire invece era, va bene, ma allora come funziona la filiera in qualche maniera dell'industria editoriale? Come si determina il prezzo di un libro? Perché poi, fra l'altro, si arriva a fare la pirateria? E, insomma, perché nessuno se lo chiede, di fatto questi dati vengono presentati come semplicemente il male, cioè chi sceglie la via del male e chi sceglie la via del bene. Ma in realtà, ovviamente, non è così, e quindi noi invece ci vorremmo fare delle domande sul perché le persone compiono degli atti di pirateria, e ci aggiungerei anche per fortuna. E insomma, andremo un po' a cercare di dipanare questa cosa con questi due, boh, non so se chiamarvi ospiti No, o no, no. insider, compagni di avventure. Sì, yuhu. E, però prima magari mettiamo un po' di musica Sì, evviva. Ci vuole un po' di musica. con Sì. Lizzie Mercier de Clue. Bye. che bomba questo pezzo. Bello, bello davvero. E quindi, dicevamo, no? Balliamo in questa trasmissione. Sì, balliamo. Dalla sigla in poi, direi. Dalla sigla in poi. Dicevamo, quindi, tu in qualità, ecco, appunto, di anche animatore, di contrabbandiera, direi, ci aiuterai un pochino a capire anche come funziona la filiera dell'industria editoriale, perché comunque se ne faceva un gran parlare in questa inchiesta, no? Si diceva questo e quello, perdite dell'indotto occupazionale, cioè, e da lì la narrazione molto semplice, molto immediata è: ma se io rubo un libro, cioè dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che muore, una famiglia che finisce in rovina, no? No, ma infatti sarebbe interessante. Ora, io ho preso giusto qualche appunto di dati, prometto che sarò confusionario, ma insomma siamo assieme, quindi davvero facciamoglielo qualche conto in tasca a questi grandi editori. Intanto vediamo chi fa parte dell'AIE, chi sono gli editori italiani e come si muove il mercato editoriale, chi ci guadagna, come, dove. Beh, allora, un fatto che mi interessava dire è, a parte i dati, e questa è evidentemente un'indagine statistica condotta dall'AIE stesso o per conto loro, però solitamente i dati che rilasciano gli editori sono sui dati di vendita, voglio dire, quelli che sono anche pubblicati sulle riviste, arrivano dagli editori stessi. Cioè, obiettivamente non c'è controllo, non esiste un ente che controlli quali sono i dati. Un caso esemplare in questo senso è quello dei Wuming. I Wuming avevano già la fascetta per Q, il loro primo romanzo collettivo firmato come Wuming, un milione di copie vendute, la famosa fascetta gialla in Audi, no? Ricordiamolo. Sì. Un milione di copie vendute quando loro contemporaneamente sul loro sito, su Jap, facevano, la chiamavano, se non sbaglio, operazione verità, trasparenza, cioè comunque sì, rilasciavano sì, sì, i dati dei libri venduti oltre a renderli scaricabili gratuitamente dal loro sito. Ecco, sul loro sito il conteggio era, se non sbaglio, circa 630.000, quando Einaudi rilasciava già il libro con la fascetta di un milione di copie vendute. Vabbè, ma si fa così a braccio. È un dato che mi ha colpito scoprire, però voglio dire, cioè, si parla di quasi 400.000 copie sparate così a caso. Prevediamo che fra un mese, se mettiamo la fascetta, arriviamo a un milione. Ci sta, infatti, in effetti, magari era vero, cioè una profezia che si autoavvera. No, però questi editori chi sono, francamente? Obiettivamente oggi il mercato è dominato da tre grosse major che da sole hanno la quasi totalità del mercato editoriale. E questo è drammatico sia per la produzione sia per la distribuzione, perché la distribuzione, che poi è il vero grande demonio insieme a queste major di produzione editoriale, ma forse anche sopra a queste, ma sono in fondo la stessa cosa, la distribuzione si garantisce la grande fetta del mercato. Ma prima gli editori, che in effetti sono davvero ricondotti a tre grandi gruppi, dal 2017 quando la Marina Berlusconi, insomma, sì, Fininvest, si sono comprati RCS. Mondadori ha acquisito RCS e in questo modo hanno fatto un gruppo, il cosiddetto Mondazzoli, per riderlo un po', che da solo aveva il 60... Mondazzoli, oddio che errore! Cioè, su treccani.it mi sa che sul vocabolario è già, fra l'altro, stato inserito. Orrore! Ironico. E hanno fatto, sono gli stessi che provarono fra l'altro a fare il controsalone del Festival del Libro subito dopo aver costituito il gruppo a Milano per portarlo via da Torino perché troppa presenza dei piccoli editori vi era. Ah, sta cazzata! Era concomitante con la fondazione, con la creazione del gruppo. Non gli è andata bene in quel caso? No, non gli è andata bene, perché si oppose la sindaca, ci furono polemiche fra le regioni, eccetera. Però è significativo proprio dell'arroganza, insomma, della supponenza di chi davvero detta legge nel mercato editoriale. Insomma, è fortemente monopolizzato il mercato, cioè dell'editoria. Fortemente. I grandi cinque, prima che Mondadori si comprasse RCS, erano appunto Mondadori, Feltrinelli, GMS, questa è singolare, dopo la vediamo, il gruppo RCS, che poi appunto è stato comprato da Mondadori, e poi Giunti. In questo modo poi da grandi cinque sono diventati grandi quattro. In realtà si potrebbe dire anche grandi tre, perché Giunti è piccolina rispetto agli altri, vale davvero poco. E è significativo il fatto che Giunti si sia accorpata in una joint venture assieme a GMS, poi fallita, dalla quale si è staccata, dopo che la stessa GMS, un altro di questi grandi gruppi, si è accorpato con Feltrinelli dal 2017 o 14, una delle due, insieme in questa nuova joint venture. Un fatto significativo che crea davvero un monopolio a tre del mercato editoriale, che vale dappertutto, nella produzione ma anche nella distribuzione, perché quasi sempre gli stessi che producono sono anche quelli che distribuiscono. È il caso, per esempio, di Messaggerie, che è un'SPA italiana gigante, che c'è sotto tutto, proprio tutto. È la GMS che dicevamo, dentro a Messaggerie c'è anche GMS, che nasce come gruppo di distribuzione Messaggerie, e poi piano piano si prende una serie di editori. Proprio le acquisisce, cioè tipo attualmente come distribuzione tutto il 35%, il 35% dei libri passa dalla sua distribuzione. Si sono comprati tipo IBS.it, Fastbook, robe più famose. Madonna. E sono gli stessi, dicevo, che si hanno fatto la joint venture con Feltrinelli, hanno comprato PDE, che era l'altro distributore concorrente, che fino a 10 anni fa esisteva e spadroneggiava. E niente, con quel gruppo editoriale, quello di Messaggerie, che si chiama Mauri Spagnol, e ha sotto tutti, tipo, che ne so, Longanesi, Guanda, Newton Compton, Salani, Garzanti, Tea, Bollati, Boringhieri, Ponte alle Grazie, Valleardi, Corbaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Partecipa in La Terza, partecipa in Chiare Lettere, partecipa in Carrocci, partecipa dappertutto. Nel momento, questo è Messaggerie, che è la principale distributrice italiana, che allo stesso tempo sotto di sé buona parte della dentro sé buona parte della produzione editoriale italiana. Questo lo vedremo poi tra poco, teniamolo a mente, perché poi quando si tratterà di capire le percentuali sul prezzo di un libro, cioè chi quale parte va a chi, la distribuzione, vedremo, occupa una fetta importante e va in mano a queste persone, fondamentalmente a un monopolio. No, ma infatti io ci andrei anche subito sulla distribuzione, giusto per dire un paio di editori famosi. Il gruppo invece che fa parte di Mondadori, no? Beh, ha sotto case editrici giganti, cioè non si fraintenda, tipo Inaudi è di Berlusconi, è della Mondadori, PM, Sperling, Kupfer e così via, ma che ne so, Rizzoli, Bompiani, Marsilio, Fabbri. Stanno tutti. Sì, un po' il mito dell'editoria, no? Che c'era anche prima. Che mito era anche in realtà il fatto delle singole case editrici, anche grandi come Einaudi, obiettivamente, che ha fatto la storia dell'editoria italiana, che però aveva la sua tradizione, la sua storia, anche il suo stile, se vogliamo. Cioè, questa in parte immagino che continuerà a esserci, perché sarebbe stupido anche a livello commerciale appiattirlo, però è un mito di fatto ormai adesso, visto che poi di fondo si è tutto raggruppato in singoli gruppi, cioè che quindi non è difficile parlare per editori singoli. Rimane sicuramente grandezza dentro ai grossi editori storici, a cominciare da Einaudi, ci sono lì i migliori editor, correttori di bozze, però in effetti sono comandati da uno stesso padrone che segue innanzitutto le leggi del mercato, e quindi più di molta libertà non vi può essere, visto che un libro innanzitutto deve vendere, e il concentramento monopolistico della produzione editoriale e distributiva palesa come il libro in realtà sia una merce come un'altra, sia vista come un equivalente di una qualunque altra merce sfornata e prodotta soltanto per fare denaro, proventi, profitto. E infatti in questo senso, come dicevi, un po' il cambio culturale di concezione di quello che è il ruolo dell'editore si ravvisa tantissimo oggi. Quello che nasce di piccolo è quasi solo Vanity Press. Vanity Press sarebbe l'autore paga per pubblicarsi. Sì. Io editore ti stampo il tuo libro, non lo correggo, non lo impagino, non lo distribuisco, non lo promuovo, che me ne frega, io mi sono preso i tuoi soldi, l'ho stampato, ci ho già guadagnato, e poi onere tuo, se tanto t'andrà bene io ho già i diritti sul tuo libro, quindi tanto meglio per me, e il mio guadagno l'ho già fatto. Questo è quello che esiste nella piccola editoria, in buona sostanza, contro la grande. Nel mezzo c'è poco, e quello che può prova a barcamenarsela, sicuramente costretto da tutti quelli che sono le percentuali del mercato. Per esempio il fatto che minimo il 60% della distribuzione del prezzo di copertina va dalla distribuzione. Sì, questo è un dato che mi sento veramente di sottolineare 5 volte. Cioè, io sapevo che la distribuzione era una fetta importante del costo di copertina, non mi aspettavo questa cifra. Cioè, comunque... Io parlo di distribuzione nazionale, in effetti la distribuzione regionale può essere anche al 50%. Beh, però comunque è tantissimo. È tantissimo, è veramente... La fanno da padroni non soltanto per questo, ma anche perché... determinano spesso la presenza di un libro in una vetrina, di piatto, su uno scaffale, incolonnato all'interno di una libreria, perché sono quelli che poi dettano legge nelle librerie di catena. Infatti non si contano i casi degli editori che hanno pochissimi dipendenti e spendono un sacco di soldi in promozione, distribuzione, grazie agli agenti degli stessi distributori che vanno a promuovere il libro, grazie a promozioni spinte sui giornali, in pubblicità e all'interno delle stesse librerie per avere il loro libro. Cioè, praticamente ci stai dicendo che paghiamo metà del libro, lo paghiamo per quelli che ci mettono la pubblicità del libro, la copertina e distribuiscono il prodotto già confezionato fino nella libreria e te lo fanno trovare lì, sostanzialmente. Almeno il 50%. Che poi, sì, ora, così. L'idea che... Cioè, a me la cosa che... Questa cosa mi ha stupito già quando l'avevo scoperta anni fa. Cioè, che comunque il distributore, uno se lo immagina come una specie di che ne so, di commesso che va in giro e porta a porta, no? A vendere. Comunque si sbatte, porino, va lì alla libreria e dice no, dai, e comprati sto libro... Ma no, cioè ci sono, compila dei cataloghi dove comunque in alto ci sono di base sempre i soliti e sempre quelli che hanno pagato di più per essere in alto. Sì, e sì. Fine. In alto ci sono quelli che hanno pagato di più per essere in alto nella mailing list, nel catalogo cartaceo, e chi, l'agente del distributore, promuove chi ha pagato per essere promosso. Sì. È questo quello che succede. Quelle figure lì ci sono ancora, sono degli agenti al soldo dei distributori o delle grandi case editoriali, che poi abbiamo visto più o meno sulla stessa cosa, che promuovono i libri che o hanno pagato o hanno un interesse loro perché si sono accaparrati la traduzione estera o cose del ma genere. Ma sono casi particolari, come dire. Cioè, se tu scrivi il tuo libro, per quanto possa essere un librone importantissimo e fondamentale che tutti dovranno per forza leggere, però di base non è che il distributore... a prescindere dalla casa editrice per cui esce, a meno che insomma non sia Mondadori, ma se no è difficile che il distributore si prenda la bega di andare in giro a promuovertelo. Non c'è praticamente, no, non c'è spazio, il distributore non lo fa. Se lo fa, lo fa l'editore, l'autore stesso, perché hanno interesse in quel libro, ma nessun altro, no. Quindi lui si piglia il 60% per fare cosa? Fondamentalmente per avere un monopolio, perché ha acquisito una posizione monopolistica che ora si gode. Bene, infatti. Sì. Infatti. E in effetti si sono comprati via via gli altri concorrenti e si riconduce tutto a tre gruppi promozionali e distributivi e questo è... Oltretutto questa cosa del monopolio, cioè, mette anche in discussione anche il contenuto di queste cose, no? Cioè, fa un po' dubitare della libertà quasi di espressione, no? Questo accentramento nelle mani di poche, del controllo di quasi tutte le maggiori case editrici che possono essere, appunto, poi immagino che nel mondo dell'editoria dei giornali e dei quotidiani non sia tanto diversa la situazione, quindi cioè, posso immaginare anche che l'informazione che passa attraverso questi libri, i contenuti che passano attraverso questi libri possono essere veicolati verso forme di chissà. Beh, ma senz'altro nel momento in cui c'è una posizione monopolistica uno domina il mercato e peraltro il livello dell'editoria rispetto a quello dei quotidiani che dicevi e anche i contributi all'editoria sono minori di quelli che arrivano alla carta stampata. Ovviamente. Per esempio e peraltro spesso sono gli stessi gruppi, è il caso di RCS, prima parlavamo. Chiaro. Ci sono gli stessi padroni di case editrici e di giornali dappertutto. Cairo è un esempio. Cairo, Cairo Editori, certo, sì. Ma... E quindi scusami, cioè facendo proprio le pulci a proprio dalla lista della spesa della signora che va a fare la spesa, ma e quindi in un libro X medio con un costo medio, il prezzo di copertina come è suddiviso come tipo di costi? Perché abbiamo detto il 60% tra il 50 regionale, ma diciamo sì, dal 60 in su, in realtà 60 è veramente un caso eccellente. Madonna. Dal 60 in su va al distributore e c'è da considerare in questo aspetto, prima di vedere il resto delle percentuali, la questione dei resi, perché le librerie, soprattutto quelle di catena, possono, perché tanto più grande è la libreria, tanto più grande è il distributore, tanto più grande è l'editore, tanto più questo vale, c'è la possibilità di rendere. Quindi la libreria acquista quasi senza rischio, il distributore fornisce senza rischio e la libreria ha 40% circa di possibilità di reso, quindi è difficilissimo sbagliare. Questo reso che viene fatto all'editore si trasforma in nota di credito per acquisti successivi, quindi una perdita effettiva non c'è. Certo. Il distributore contratta con l'editore prima di distribuire che gli sia reso all'editore il reso eventuale delle librerie. Quindi non ha nessun rischio, non lo sta comprando l'editore. Eppure allo stesso tempo si permette di imporre all'editore che voglia distribuire con lui, per esempio, di stampare come minimo 1000 copie, preventivando una resa che nella migliore delle ipotesi, cioè se il libro è un grandissimo successo di quelli che se ne parlerà per anni, c'è il 50% del reso. Quindi un editore deve sapere che se va col peggiore distributore stampa 1000 copie e gli verranno rese almeno 500 copie. Se proprio gli va di lusso. Ma proprio alla grandissima. Proprio alla grandissima. Di quelle che ha venduto, almeno il 60% del prezzo di copertina è andato al distributore. Ci sono casi incredibili, per esempio Eurispes ha fatto un'indagine recente che voleva anche incentivare, promuovere la piccola editoria e quindi dire la virtuosità delle librerie indipendenti, della piccola editoria, e fa delle gaffe che mi sono sembrate incredibili. Per esempio cita come caso positivissimo la Coop, che da un po' sta sviluppando delle librerie indipendenti dentro i centri commerciali, cioè non si confondono con le altre merci, ma hanno un settore dedicato e questo incentiva l'acquisto. E lo circostanzia sul fatto che i dati di acquisto in effetti sono saliti nei supermercati. Questo in realtà è un problema gigante, perché i supermercati, in particolare faccio il caso di Unicoop e cito percentuali che so e che sono esatte, si prende la Coop l'80% del prezzo di copertina. La Madonna. Altro che distributori. L'80% del prezzo di copertina se lo prende la Coop, il grande caso virtuoso citato da Eurispes perché gli lascia una libreria di legno apposta nello scaffale. Non è che gli lascia dentro gratis. Quel 20% che resta ci dovrebbe essere il compenso all'editore, cioè il lavoro fatto dall'editore, il compenso, quindi la percentuale per l'autore, il costo di stampa del libro e anche il portarlo fisicamente affinché questo... Tra l'altro, qui, ora, uno dei... Sì, chiaramente mi vengono in mente 1000 cose, ma una delle prime cose che mi viene in mente è il motivo per cui si traduce così poco. Perché chiaramente se in tutto questo qui tu ci devi mettere anche il costo, cioè nel lavoro dell'editore ci devi mettere anche il lavoro, per esempio, della traduzione, ma anche no. Io dico una cosa terribile che è successa, effettivamente io senza conoscere... Vabbè, queste cose si raccontano... Senza conoscere l'inglese assolutamente a sufficienza, mi è capitato di parecchi anni fa, che ero piccino, di tradurre un libro per una casa editrice fiorentina che ora non esiste più, che si è rilanciata in realtà con stessa grafica, eccetera, distribuita da RCS, che mi ha pagato pochissimo, cioè una vergogna, per tradurre senza nessuna competenza, io che ero uno studente, un libro che era un libro che poi è stato distribuito in numerosissime copie, e quando io chiedevo loro... mi ero proposto per un'altra lingua, mi hanno detto no guarda c'è questo nell'inglese, se comunque lo parli abbastanza potresti fare questo. Io ho chiesto, mi hanno detto puoi prenderti altri libri, cioè sono già stati stampati, i diritti sono scaduti, te li prendi, li metti un po' assieme e poi lo facciamo uscire. Ecco, questo libro è uscito in questo modo da una casa editrice distribuita dalla RCS di cui sopra, che si piglia il 35%, quindi i traduttori spesse volte sono dentro a questa maglia, cioè non esistono, perché se esistono sono da pagarsi chiaramente troppo. Molto meglio uno studente che comunque un po' se la barcamena e ti ha fatto vedere che due cose di prova le ha sapute fare, e allora va bene, gli do 300 euro e ho tradotto un libro, rispetto a quante volte tanto che avrei dovuto pagare un editore professionale. Certo, a me mi hanno chiesto la stessa cosa tanti anni fa, non come traduttrice ma come lettrice di libri, e mi hanno proposto di pagarmi in libri. Ti guardo e guarda, questo è il catalogo, ti scegli tre libri che ti piacciono, fatto. È terribile, minimizzano dappertutto, hanno davvero una riduzione dei costi strepitosa e tutto va a gravare su chi compra. E infatti il caso dell'ebook di cui accennavamo prima è eclatante, a maggior ragione, perché veramente il costo di produzione è piccolissimo. Infatti ci arriveremo, e se siete d'accordo metterei un altro pezzo musicale, così poi entriamo un po' nella questione dell'ebook, perché poi di base volevamo appunto entrare nel merito, visto che è stato dato molto risalto alla questione della pirateria dei libri digitali, quindi dell'ebook, e quindi capire anche le differenze col mercato cartaceo e capire anche qui i costi come sono ripartiti quantomeno, e poi fare anche un'incursione su quello che è il mercato universitario, quindi libri universitari, libri scolastici, che in qualche modo rientrano, cioè sono viziati dagli stessi problemi, però hanno anche delle peculiarità loro che volevamo un po' approfondire. Però prima metterei è difficilissimo da leggere, i Wingnut Dishwashers Union, che se no non è veramente un gruppo, è una persona sola, però è molto figo, e My Idea of Fun. Mm-hmm. swear I'll run away from every home I ever have. So I'll build a new house in every town I pass. And maybe then I won't always feel lost and trapped. When I was growing up, I was the smartest kid I knew. Well, maybe that was just because I didn't know that many kids. All I know is now I feel the opposite. Like if you don't want to work, then that becomes your job. There's a lot of overtime. There's not many days off. I hope you know that I'm not trying to complain. It just gets hard to explain to people that I know or the kids who come to shows that I just don't want to talk about the office today. I'm burying their arms for a vein or two that maybe they forgot. And the cops say it's a crime for people like me and those friends of mine to wanna die. Like my neighbor in St. Pete, she's been on house arrest down here. If she tries to leave her yard, they'll lock her in a cage for years. 'Cause sometimes she wants to die. And she shoots dope when she thinks she could die. And the law, they caught her one too many times. Shooting dope when she felt like she could die. What you don't love, 'cause we're enough. Live okay, because we'll always be enough. Finita così, eh? È finita c'è così. Una coda strana. YouTube. Maledetto YouTube. Non te lo odio. Va bene. E, quindi dicevamo la questione degli ebook, no? Perché abbiamo fatto un discorso su quanto costa anche produrre un libro. E tra l'altro siamo arrivati fino a un certo punto, perché in realtà ci sarebbero da considerare anche degli aspetti di cui non abbiamo parlato, come ad esempio le materie prime, la carta, banalmente, che tu ci dicevi fuori dai microfoni, comunque tra l'altro negli ultimi tempi è aumentata non poco. No, ma perché rilevavamo prima assieme come in effetti i costi degli ebook siano negli ultimi anni saliti, attualmente siano quasi uguali al costo di un libro cartaceo. In realtà, nonostante ci sia una differenza potente nel costo di produzione, a cominciare da quello delle materie prime, il costo della carta infatti sì, è salito, attualmente le stamperie stanno facendo salire via via la carta, c'è sicuramente speculazione, anche questo venivamo prima, però perché buona parte della carta a basso costo arriva dall'est Europa, arriva dall'Ucraina, del legname, anche con cui si fanno fra l'altro i mobili IKEA, per esempio, eccetera. Ma questo è importante perché non ha senso il fatto che un ebook costi quanto un libro cartaceo, e il fatto che stiano piangendo miseria sulla pirateria, comunque dopo che hanno speculato enormemente gli stessi grandi editori sul digitale, non lo so, ci fa un po' cascare le braccia. Ma anche perché io mi ricordo che comunque quando iniziarono a lanciare gli ebook, che veramente leggevano in tre persone, cioè, gli ebook costavano oggettivamente veramente poco. Veramente poco. Pochi euro. E era un prezzo quasi al limite del simbolico, che probabilmente era anche, cioè nel senso era correlato di fatto all'edizione cartacea. Te facevi l'edizione cartacea, di base il lavoro che ci aveva fatto, che ne so, chi aveva tradotto, l'editor, tutte queste cose qua venivano ripagate, o comunque si provava a ripagarle col libro cartaceo, e poi in più si faceva l'edizione digitale, che quindi poteva costare poco perché comunque era come fosse un appendice del libro cartaceo. Poi però non è che è cambiato qualcosa, si diceva prima, nella cura anche, cioè non è che invece l'ebook è un prodotto, è bruttissimo chiamarlo prodotto, però dal loro punto di vista un prodotto diverso, cioè non è che quello l'hanno fatto e diventa un qualcosa di effettivamente autonomo, anche altrettanto curato, per cui tu dici vabbè, ma deve costare tot perché insomma chi c'è stato dietro lo devo pagare. Ma perché non è cambiata nemmeno la tecnologia, cioè il formato non è migliorato, le possibilità non sono aumentate, siamo sempre molto raw, molto grezzi con le possibilità. E gli editori stessi, io confermo, li riprovo degli ebook, sono non li curano, insomma. Obiettivamente leggere un ebook su una piattaforma, su un lettore piuttosto che un altro, lo fa cambiare davvero molto. Cioè non c'è un'attenzione grafica, una cura ulteriore, nemmeno negli indici, nella table of contents, nell'indicizzazione. È fatto veramente spesso male, cioè lo stesso file impaginato magari per il cartaceo è esportato con un altro formato che all'inizio aveva un costo simbolico e attualmente invece lo ha molto più alto. Io sospetto, ma così sospetto appunto, che ci sia la volontà di profittare e quindi anche di speculare da parte dell'editore su questo, perché non si capisce perché effettivamente dovrebbe costare così tanto, considerando tutto quello che dicevamo anche prima sulla distribuzione. Cioè costa la carta, costa la stampa, costa l'inchiostro, costa la distribuzione, ci sono tutti i resi, l'editore si deve accollare spese enormi perché sa che almeno la metà dei libri gli vengono rimandati indietro se sta con un distributore e così via. Magazzini. Tutto questo non è incluso nel discorso del digitale, eppure da costare una cifra simbolica sono arrivati a costare una cifra quasi equivalente al cartaceo. E questo ci colpisce anche e il fatto che non venga fatto notare, o quantomeno che sia messo tutto nello stesso calderone dall'Agenzia Associazione Italiana degli Editori, significa anche insomma è una malafede. Sì, insomma. Ma di qui anche, io direi, due considerazioni che ci portano ad arrivare un po' anche alle motivazioni, senza voler fare il conto in tasca alle persone, però sul perché poi si arriva a rubarsi il libro, al di là che penso che qua dentro siamo tutti super d'accordo nel farlo, però cioè che non c'è manco bisogno di motivazione, fallo e basta, però E se vogliamo andare a vedere, di base, cioè, intanto c'è il prezzo, ovviamente, e l'abbiamo appena detto, cioè se un ebook mi deve costare 20 euro tale quale o 15 tale quale un libro cartaceo, che già costa tanto, perché anche 20 euro un libro cartaceo costa tanto. Ma è chiaro che me lo rubo perché non ce li ho i soldi e comunque la cultura si era detto che era un diritto e che c'è, insomma, e doveva essere libera. In più c'è un altro fatto che ci dicevamo che è legato invece alla questione della cura che tu dicevi e anche di tutto il processo che ha un libro, come dire, la vita di un libro, perché tu prima parlavi di resi, no? E ok, il libro è molto probabile che a un certo punto, si diceva prima, generalmente ormai il mercato del libro considera che se un libro entro X mesi non viene venduto, non lo sarà più. Quindi di base non c'è più quel concetto del io faccio un libro, lo immetto nel mercato, lo dono al mondo perché venga letto e venga ritrovato nei secoli. No, di base è una roba che è un prodotto e che quindi c'è una data di scadenza perché se tra 3 mesi la gente non l'ha comprato, basta, non, cioè, basta, fine. Quindi quando poi mi vengono resi i libri, probabilmente tanti invenduti, di base si andrà al macero, verranno macerati e da qui si arriva alla considerazione che molti di voi, magari ci saranno già arrivati a questa considerazione, capita molto più spesso di non trovare più un libro, cioè che un libro sia fuori corso, cioè che tu non riesca più a ritrovare un libro perché magari è stato scritto 10 anni fa. Cioè, non è un libro di 40 anni fa che oggettivamente dici, boh, magari sono finiti. No, magari il libro è stato, cioè, 5-10 anni fa, eppure è già introvabile. Perché? Perché l'editore l'ha macerato, perché non gli conviene più, perché che se lo tiene a fare nel magazzino. Oltretutto pensiamo anche a quante tonnellate di carta e vengono ogni anno Eh sì. buttate via, perché cioè, se ci pensiamo, cioè, quanta produzione c'è in più, se come dicevi te soltanto il 50% rimane venduto. Ma basti pensare anche a tutti i libri scolastici che vengono venduti, poi magari ne parliamo meglio, ma Sì. che devono essere ristampati e che ne vengono fatte edizioni su edizioni. Che un'edizione magari di 2 anni prima non va più bene perché hanno cambiato due foto, le hanno spostate una a destra e una a sinistra per fare un luogo comune, no? Però succedono anche queste cose, cioè ci sono, magari cambia la numerazione delle pagine, però più o meno quello che c'è scritto dentro, paro paro. Ma infatti sul libro scolastico poi davvero magari ci andiamo un po' a fondo dopo perché è Chiaro. massimamente scandaloso questa cosa. E sulla carta anche, e già che ci siamo, diciamo anche quanto in realtà, come dicevamo prima, se queste sono le percentuali che abbiamo tracciato, quello che resta è da spartirsi fra editore e autore. Questo vuol dire in realtà che molto spesso, anzi quasi sempre, gli editori, a meno di non avere un'intenzione, una predilezione spiccata, eccetera, sono costretti a stampare al minor costo possibile, quindi a stampare con carte di peggiore qualità che arrivano da tutte le parti del mondo, che non rispettano una serie di parametri, in realtà, e così via. Ora, senza approfondire, Chiaro. però in effetti questo è vero. Ora, mi ero perso un attimo sul discorso di prima. Sì, perché il discorso che si diceva era sulla questione alla fine io arrivo a rubare un libro anche perché non lo Sì. trovo. Cioè, banalmente, anche non solo perché non c'è soldi, ma perché non c'è, perché non è più Certo, disponibile. perché è cambiato un po' il modo di fare, francamente, editoria, nel senso, togliamo dal discorso la vanity press che dicevamo prima, per cui l'autore paga uno pseudo cosiddetto editore per stampare dei libri e poi l'editore ci ha già guadagnato, quello è così terribile da non essere via dal discorso. Invece, per quanto riguarda la grande editoria, effettivamente prima c'era un'attenzione al libro, venivano per esempio selezionati certi autori, certi temi, certe cose che dovevano impattare in un modo, in un luogo, e venivano stampate all'opposto di adesso, magari poche copie, perché venivano appunto circostanziate, predisposte a essere messe in azione in dei luoghi, in dei contesti, in delle collettività. E allora c'era la cura di magari un'innovazione, un autore che non aveva una fama già acquisita e che veniva lanciato dallo stesso editore proprio perché era interessante per quel tema, per quel filone, per la linea politica che poteva avere l'editore stesso. E il numero di copie non era come ora quello massimo possibile affinché la copia singola non costi troppo, ma nemmeno troppo poco, che questi sono i ragionamenti adesso. Adesso, allora era invece no, ne stampo un minor numero di copie, se poi funziona vado... Le faccio ancora. C'era una cura, un'attenzione, si lanciavano esordienti, c'era la volontà di tenere dei filoni. Tutto questo in realtà oggi viene meno, a cominciare davvero dai minuscoli editori che fanno Vanity Press e poi arrivando anche alle major. Per cui in effetti si stampano degli instant book, dei libri che devono avere un mercato immediato, viene fatto un'analisi di mercato, una valutazione dei costi, un preventivo su quanto ci si guadagna e 3 mesi dopo quel libro è esaurito. Tantissimi si sa già che saranno esauriti, altri si tentano nella speranza che possano, posto che già ci sarà un guadagno, perché figuriamoci se si va a promuovere un libro che non siamo sicuri, certo, del suo editore. Ma se sarà imbroccato, allora ci sarà la possibilità di ristamparlo, di curarlo, di farne un'edizione best seller e così via. Però l'orizzonte che viene dato non è certo mai quello, non più. Ma l'ultima cosa riguardo a questa parte, poi dopo appunto entriamo magari meglio nella questione di libri scolastici, universitari, ma prima dicevi appunto del fatto che i distributori appunto si pigliano, abbiamo detto varie volte, una grossa percentuale del libro. E nel caso degli ebook? Nel senso che se prima il distributore, appunto abbiamo detto che non andava con la sua cartellina negozio per negozio, ma qui si parla di ebook, qual è il ruolo del... cioè è la stessa percentuale che si prende? E che cosa fa in questo caso chi è e che cosa fa il distributore nel caso dell'ebook? Negli ebook esistono un paio di possibilità di stare fuori dalla distribuzione monopolistica, che però sono monopolistici in un altro modo, perché in effetti sono davvero un paio, non per dire pochi, per dire due, e si prendono il 60% della distribuzione, il 60% della distribuzione nel caso in cui si propongono anche di mettere in vendita sulle varie piattaforme digitali. Quindi l'equivalente di quello che si piglia il miglior distributore cartaceo. In cambio cosa ottiene un editore, un autore? Il fatto di, se vuole, avere un ISBN, perché un codice a barre diverso deve essere, un codice ISBN diverso deve essere dato per ogni nuova pubblicazione, anche per quelle digitali, che gli viene fornito dallo stesso distributore. In più lo vedrà venduto sulle stesse sulle varie piattaforme. Le varie piattaforme quali sono? Tipo, che ne so, Feltrinelli.it, Epli.it, IBS.it e così via. Quelle più famose. Amazon, eccetera. E in realtà sceglie l'autore o l'editore su quali metterle o quali non metterle. Questo è interessante anche perché ci sono delle percentuali di sconto che sono intorno al 15%, che fanno i principali distributori, i principali rivenditori online. Parlo di Amazon e DBS in particolare. Queste percentuali non gravano su chi rivende, gravano sull'autore e l'editore. Cioè, quindi tu editore puoi scegliere di non metterle lì, ma sappi che se non ci vuoi stare, Amazon ti dice: intanto non stai su di me, ti creo lo stesso una scheda del tuo libro e metto che non è disponibile. Questo lo fa Amazon di default. Se ci vuoi stare, però devi considerare che il 15% del prezzo di copertina è scontato e ricade su di te quella scontistica. Cioè, quindi, dopo aver acquisito una posizione dominante, loro sul mondo e nel digitale, IBS, soprattutto sul cartaceo in Italia, impongono questo sconto. La possibilità è quella di stare fuori. E questo vale anche per l'ebook. Cioè, non cambia in realtà praticamente niente. La differenza è che non c'è il costo della materia prima, non c'è... ci sono anche altre possibilità, nel senso, se un editore diventa sufficientemente grande può essere accordi personali con le librerie, provare a imporre le proprie condizioni, ma questo succede negli anni a prezzo di avere accondisceso a tutta una serie di cose. Nell'immediato, se uno vuole pubblicare un libro, è un esordiente, un piccolo editore, queste sono le regole, certo, se ci vuole stare, oppure sceglie di stare fuori. Oppure autoproduzioni di base. Oppure un'altra strada, sì. Se no, questa è la regola del gioco, evidentemente. E bene, e quindi invece per quanto riguarda il mercato dei libri studenteschi, perché comunque vedevamo che lì proprio il piagnisteo raggiunge delle vette, no? Si parlava appunto dell'81%, l'incidenza dell'81%. Un dato interessante. Tutti gli universitari rubano i libri. Sa, forse è sicuramente, anzi no, non forse, sicuramente è sintomo di un fenomeno che l'università italiana non ha preso considerazione, sicuramente. Cioè, ci si potrebbe fare due domande. Che è quello del caro libri, si potrebbe dire, no? Cioè, il fatto che, banalmente, basta chiedere a chiunque abbia fatto un'esperienza universitaria per affrontare un esame sia necessario appunto dover spendere decine e decine di euro, centinaia di euro talvolta, in materiale di libri sostanzialmente, in materiale scolastico, che siano libri e siano altre cose. E questo comunque, cioè, è un dato sicuramente molto interessante, cioè che fa emergere il fatto che, cioè, che fa capire questo dato, forse che forse è amplificato, forse sì, forse no, non si sa. Però in ogni caso, anche se fosse vero, è un dato, ci sta. Sì. E poi c'è il fatto che ci dicevi anche prima su come molti siano i professori che impongono in effetti i propri... Sì, chiaro. Poi ovviamente questa logica si va a inserire perfettamente in quella che è l'università del baronaggio, no? Quindi della cooptazione, e si va a sommare anzi a questo fenomeno, e quindi diventa necessariamente una fonte di guadagno e di reddito ulteriore per i professori universitari che scrivono libri per i propri corsi universitari in modo che gli studenti lo acquistino, che di base, come si diceva prima, potrebbe essere quasi una pratica, boh, da un certo punto di vista quasi, cioè, non so, anche virtuoso, comprensibile perlomeno. Sì, comprensibile, ecco, perché insomma, però che poi finisce per trasformarsi per una fonte di guadagno molte volte, cioè. Certo. Sì, anche perché, guarda caso, sulla mia materia quello che è più autorevole sono io. Trovatemi un professore che distribuisca gratuitamente i suoi libri e vi dirò che, sì, che è un virtuoso, insomma. Sì, l'altra cosa che ci dicevamo era il fatto che, appunto, chiaramente viene riconosciuto che effettivamente non si può proprio negare totalmente il diritto a questi libri e all'accesso a questi libri, e quindi di base ogni libro di testo deve comparire in una copia nelle biblioteche. Sì, chiaramente. Sì, però in un corso ci sono diversi studenti. Sì, sì, poi una copia nelle due o tre, ora oddio una... Com'è? Due o tre, mannaggia, biblioteche centrali italiane. Nazionali, sì. Due. Sono due. Due. Voglio dire, quello è l'obbligo. Per il resto forse un professore ce l'ha con la propria università, di una cosa. Sì, sì, forse chiaro. Sì. Sì, con la propria università probabilmente. Però non si contano i casi di studenti che non riescano a trovare i libri perché fuori per un esame, perché un intero corso ha quello stesso libro e quindi siano costretti all'acquisto. Sì, evidentemente la soluzione che la maggior parte di studenti adotta è quella di scaricarsi questi libri e di usufruirne in maniera virtuale o stampando, appunto, fotocopiandoli. Perché giustamente uno che già all'università non è proprio, diciamo, un percorso economico dal punto di vista dell'impegno che richiede a livello economico, appunto, quindi a sommare pure questa spesa a studenti che magari sono anche studenti lavoratori, no? Come molti, appunto. Ma infatti è un argomento di classe, voglio dire, in qualche modo anche questo, il fatto che l'università conosca un sacco di accessi, quello economico, quello del numero chiuso, quello dei master che sono sempre più autorevoli per l'acquisizione di titoli per i posti pubblici, eccetera. Chiaro, è un aspetto che ci aggiungi le centinaia di euro che sono da spendersi quasi per ogni corso nei libri, e vale magari ancora di più per università nelle quali ci sono dimensioni laboratoriali, che ne so, architettura, i plastici e così via. Là si parla di migliaia di euro, e tutto questo, voglio dire, è extra, deve ricadere sullo studente, le proprie famiglie. Che bel mondo. Quindi sì, questo sostanzialmente volevamo dire, e in realtà ci immaginavamo una seconda parte di questa trasmissione, perché altrimenti andremo veramente troppo lunghi, in cui raccontiamo un pochino alcune cose che non c'è stato tempo di dire, per esempio i DRM, perché in realtà ci hanno provato in tutti i modi e ci continuano a provare in tutti i modi a mettere un freno anche tecnico alla pirateria quantomeno digitale, e quindi inserire questi dispositivi di controllo che dovrebbero impedirti di scambiare anche i libri, perché mentre col libro cartaceo tutti sappiamo perfettamente che è consono e anzi è assolutamente permesso scambiare una copia, prestarla a un mio amico e poi se mi riesce a farmela rendere, con l'ebook non si può, con l'ebook dovrebbe essere anzi formalmente super sconsigliato, se, e quindi i DRM sono un dispositivo che viene inserito per scoraggiare e in qualche modo impedire questa pratica, quindi non solo non si possono prestare, non si possono anche visualizzare spesso su più di un dispositivo, insomma ci sono varie problematiche legate a questa questione, e che appunto però adesso non c'è tempo di indagare. E l'altra questione era anche invece legata al invece volevamo raccontare un po' di posti e di modi in cui potevate scambiarvi libri liberamente. Però prima di lasciarvi per appunto come dire, con la promessa di una seconda parte legata a questo approfondimento sui libri, abbiamo parlato di università, però non c'è solo l'università e c'è tutta una parte legata ai libri scolastici in generale, che anche questa ha una sua peculiarità. Sì, no, infatti se davvero gli ultimi minuti prima di per raccordare anche verso la prossima puntata, proprio perché di questo parliamo, abbiamo un contributo che ha scritto un compagno di Radio Wombat, che è anche un libraio che vende libri scolastici e che ha sott'occhio la situazione e che ci dice un po' come funziona. E a proposito di contenuti digitali e di prossima puntata, magari ci sembra opportuna come contributo da chiudere, la scritta apposta per questa trasmissione, e ve la leggiamo in conclusione. Vada. Libri scolastici. Sarà il caso di non piangere miseria. Ecco, mi sembra un ottimo incipit. Anche a me, siamo d'accordo. Potrebbe anche essere il riassunto della puntata. Sì. Che giro fa il libro di scuola? Come funziona? La casa editrice lo pubblica, o molto più spesso ristampa una vecchia edizione, rifinendo la veste grafica e aggiornando i contenuti digitali. Ad esempio, la prima edizione del celeberrimo Abbagnano Fornero, il libro di filosofia degli anni 50, lo conosciamo tutti, ancora oggi è in assoluto il libro di filosofia più adottato nei licei. Non è l'unico caso, anzi, la maggior parte delle novità scolastiche sono ristampe o nuove edizioni di libro già in uso negli anni passati. Gli agenti editoriali portano le novità o ristampe nelle scuole e le fanno adottare dai professori, che le inseriscono nella lista delle adozioni che entro la fine dell'anno, di maggio, viene comunicata alla IE, l'Associazione degli Editori, eccoli, di cui sopra. Torna. Così le famiglie dalla metà di giugno possono finalmente spendere i propri risparmi per questi capolavori del riciclo. Sì. Sono spesso obbligati a comprare il libro nuovo invece che poter contare sul libro dell'amica o del fratello maggiore. Negli ultimi anni, infatti, l'obbligatorietà dell'uso dei contenuti digitali e le stringenti regole sul copyright fanno sì che il libro usato sia complicato da utilizzare. Il codice di accesso a questi contenuti digitali, audio, video, soluzioni degli esercizi, contenuti per DSA e BES, grave parecchio questa cosa, è nascosto da una riga da grattare, tipo gratta e vinci. Oddio. Dopo un certo tempo, un utilizzo unico, un anno, due anni, dipende dalla magnanimità dell'editore, il codice non avrà più validità e il libro, per essere sfruttato appieno, dovrà essere ricomprato nuovo. I contenuti digitali sono complicati da copiare e scambiare, essendo per la maggior parte integrati nelle piattaforme delle case editrici e non scaricabili sul proprio device. Se nelle scuole superiori ancora possiamo trovare mercatini, lo scambio dei libri e qualche forma di pirateria dei contenuti digitali, nelle scuole elementari e medie il libro nuovo regna sovrano. Quali sono le case editrici che lucrano su tutto questo? Nomi. Principalmente i gruppi editoriali sono tre. Zanichelli Lescher, la prima, Pearson, che è la seconda, che è una multinazionale di editoria che da qualche anno rileva storiche case editrici, per esempio la Paravia di Torino, e l'italianissimo gruppo Mondadori Rizzoli, di cui abbiamo già parlato anche per la Varia. Da questo gioco sono completamente escluse o quasi le piccole case editrici, ormai veramente poche e sempre più in difficoltà in questo ambito, anche a causa della maestosa rete di promozione e distribuzione che questo sistema oligopolistico ha distrutturato negli ultimi anni. In più la vendita sul territorio è gestita da grandi catene di librerie, enormi catene di supermercati e infinite potenze dell'e-commerce. I risicati margini di guadagno del libro di scuola fanno sì che le librerie indipendenti non entrino nel gioco. Troppo poco margine di guadagno e troppo alto il rischio, visto le stringenti regole sul diritto di resa dell'invenduto, per i libri di scuola. Anche la recente legge sul libro, che riduce la possibilità dei negozi di scontare libri, per lo scolastico lo sconto passa dal 20 al 15%, non può tutelare le piccole o medie realtà. Il colosso dell'e-commerce applica il massimo dello sconto e recapita gratuitamente il libro a casa, senza costi aggiuntivi e in tempi record, grazie a forniture preventive, acquisti con sconto maggiore, diritto di resa più ampio e legalizzato schiavismo. I supermercati offrono, oltre al massimo sconto, vantaggiosi premi di cibo e beni di prima necessità, che visti i tempi fanno sempre gola. Così, dopo i piccoli editori, anche le realtà librarie di quartiere sono tagliate fuori da questo business. Le grandi catene, il colosso dell'e-commerce, i supermercati, aiutati dal governo e dalle associazioni degli editori, possono prosperare insieme ai grandi gruppi editoriali a scapito di studenti, famiglie e lavoratori. Evitiamo di parlare delle condizioni di lavoro dei centri di logistica editoriali, come la città del libro di Stradella, perché se no facciamo davvero notte. Direi che effettivamente era la, come dire, il pezzetto che mancava a quello di cui abbiamo parlato oggi, e sì, sicuramente ci dà anche il modo di poter approfondire poi in una puntata successiva. Non so, se vi viene in mente altro che volete aggiungere? Abbiamo dipanato un po' tutto, forse, almeno quello che ci competeva oggi. Poi appunto ci potremmo proporre nella prossima puntata di suggerire qualche piattaforma e luogo da cui scaricare qualche sì. Dare una guida un po' più pratica all'utilizzo di qualche sito, qualche strumento per che hanno anche degli ostacoli, alcuni sono nascosti, bisogna fare dei passaggi per accedervi, insomma. Devi entrare nelle cerchie. E anche magari come appunto riuscire a dribblare un po' il meccanismo perverso del DRM, cioè quindi come magari riuscire a arginarlo. A volte io mi ricordo, cioè penso, alcune persone che conosco mi hanno anche chiesto spesso come si fa a capire se un libro che ho preso c'ha il DRM o no. Insomma, magari racconteremo anche queste cose un po' più forse semplici, che però invece poi sono utili. E quindi sì, dai, direi che diamo appuntamento a una prossima puntata, non so se tra 15 giorni o tra quando, però sicuramente nelle prossime settimane, sempre ovviamente su Radio Wombat e sempre con Lovelace. Quindi vi darei la buonanotte e a risentirci a presto, e grazie a voi che siete stati qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti, lunga vita alle autoproduzioni. Ciao ciao. I'd been a gal in one dream, frequented my late afternoon, saw me in New York City, wearing a sweater color green. So one night I sat down on a chair and knitted there. Years after trying to live a woman's life, friend who had a red-haired wife. She said to me, woman, I like your clothes. Come on and let us try both and take tender care. But when you need help, I will be there. Seasons achieve their affairs. Sometime in April, the sweater I wear. Sometime in April, a letter I read. Dear friend, I think of you on the top of Empire State. Dear friend, I'm lonesome. Dear friend, I've been well. How do you spell your name? The city's changed me. I'm no longer the same. Wrote to me, woman, I'd like to stay. Liberty statue has got so many stars. But when you need